Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, incontro con Elisabetta Rasì, che ci parla del suo ultimo romanzo Non esistono cose lontane. Quanto contano Facebook e Twitter per promuovere un libro? Ce lo spiega l'esperta dei social media Barbara Sgarzi. Insolita classifica di Amazon. Quali sono le frasi più sottolineate da chi legge ebook? Oggi siamo in compagnia di Elisabetta Rasì. L'ultimo libro da lei pubblicato ora in libreria si intitola Non esistono cose lontane, pubblicato da Mondadori. È un romanzo, l'ho preciso perché Elisabetta Rasì ha scritto diversi romanzi ma anche alcuni saggi. Questo libro mi è piaciuto, mi ha coinvolto perché ha un modo di scrivere, secondo me, Elisabetta Rasì che arriva un po' al cuore delle persone. Elisabetta, in questo romanzo si parla di una storia d'amore, ma non solo, perché ci sono tantissimi temi che vengono toccati. Partiamo dalla protagonista femminile è Olga. Tutto inizia quando lei riceve una lettera da Ettore, che è stato insomma un uomo importantissimo nella sua vita, con cui ha avuto una relazione d'amore importante, ma non si vedono, non si sentono da circa 20 anni, e lui in modo perentorio in questa lettera le scrive: vieni, ho bisogno del tuo aiuto. E sì. Olga così si precipita e va appunto in questo casale dove Ettore l'aspetta. Partiamo un po' da Olga, perché poi ci sono una serie di flashback che si illumina così il passato di questa storia d'amore fra Olga ed Ettore. Che tipo di donna è Olga? Ma innanzitutto diciamo che Olga è una cinquantenne che è stata una maestra d'asilo, ma ha fatto una sua bella carriera, una donna diciamo semplice, ma allo stesso tempo dei nostri giorni, cioè quindi preparata, consapevole. Però quando arriva questa lettera, entriamo subito nel tema del romanzo, com'è formulato dal titolo, Non esistono cose lontane, perché improvvisamente questa lettera che arriva dal passato le fa capire che quest'uomo che ha così amato 25 anni prima non è mai uscito dal suo cuore, cioè non lo vede da 25 anni, ma proprio come succedeva quando era in corso, diciamo così, la loro storia d'amore, non sa resistere al suo richiamo. E infatti proprio nella quarta di copertina tu riporti, vengono riportate due frasi che chiariscono ulteriormente il senso del titolo. Lui stava fermo, poi parlò a voce bassissima senza guardarla. Ma no, sono vecchie storie, cose lontane. Non è vero. Nella storia delle famiglie non esistono cose lontane. Ecco, questo scambio di battute però avviene molto avanti nel libro, quasi verso la fine. E non si riferisce solo alla loro storia, insomma. E non si riferisce alla loro storia o solo alla loro storia. Cioè, noi seguiamo Olga anche in un lungo flashback in cui si vede, si sente, si legge questa storia d'amore con Ettore, che è stata una storia un po' di un amour fou, di un amore folle, di una passione folle, ma difficile e complicata perché... Ettore era uno di quegli uomini che sono sempre in fuga, tanto sono seducenti quanto sembrano essere inafferrabili, però è stata anche la relazione d'amore attraverso la quale Olga un po' incontrato se stessa, è divenuta una donna adulta e insomma questo Ettore le è rimasto nel cuore. Ma cosa è successo dopo? È successo che quando Ettore era partito, lei, che abitava nello stesso palazzo di questo affascinante giovanotto, nello stesso palazzo a Roma dove era nata appunto la storia d'amore, a Roma, ecco, dove era cominciata la loro storia, lei e poi si sposa, va via da questo palazzo, poi si separa dal marito, torna a vivere lì. Una notte incontra la madre di lui sulle scale e qui nasce una seconda parte del libro che è l'amicizia tra queste due donne. Che è una cosa molto bella in questo romanzo, sì. Anche perché Ettore non ha un grandissimo rapporto con la madre, i rapporti sono difficili, di suo padre non sa quasi niente o comunque non ne parla. Non sa niente di suo padre, non aveva neanche presentato la sua fidanzata appunto dell'epoca, Olga, alla madre, cioè tiene proprio sua madre anche a distanza, oltre a non sapere nulla del padre. E invece nasce questa bellissima amicizia fra Olga e la madre di Ettore. C'è un segreto che la madre di Ettore non ha mai rivelato al figlio, c'è un segreto circa la paternità di Ettore, perché Ettore non sa chi è suo padre e invece rivelerà a Olga. E qui torniamo, diciamo, ai nostri giorni, cioè alla cornice in cui tutto questo è collocato, che è una vacanza, appunto una vacanza estiva nella settimana di Ferragosto, nella casa di campagna dove Ettore l'ha invitata a raggiungerlo. Qui ci sono degli strani personaggi, perché Ettore spera di vendere questa casa, ma soprattutto c'è un personaggio che sorprende molto c'è un personaggio Olga, chiave proprio. Un personaggio chiave, perché c'è una bambina. Chi è questa bambina? È la figlia di Ettore, di cui Olga non sapeva nulla, perché in questi 25 anni non sapeva nulla di lui, però sapeva da Mercede che Mercede era dispiaciuta di non avere nipoti, quindi pensava, Mercede, la madre di Ettore appunto, pensava che Ettore non avesse avuto figli, e scopre che in realtà questa figlia gli è capitata un po' dal cielo a Ettore, perché neanche lui sapeva di averla, era nata da una sua relazione passeggera, c'è un gioco anche di segreti, di cose che vengono scoperte, eccetera. A proposito del rapporto fra Olga e la mamma di Ettore, questo rapporto è molto bello, ma perché la madre di Ettore, Mercede, decide di rivelare un segreto così importante, cioè chi è il padre di suo figlio, a lei e non a suo figlio? Cioè, prima di morire lascia questa eredità, insomma, pesantissima. Proprio perché è molto anziana, perché la morte si avvicina, anzi non è molto anziana, ma insomma sente che la fine della sua vita si avvicina e sente un bisogno molto umano, che è il bisogno di condividere non solo un segreto, ma forse la cosa più importante della sua vita. E in questa amicizia con Olga, lei sente di poterle raccontare delle cose che non ha mai raccontato a nessuno. È un po' quella intimità che a volte si crea fra una donna anziana e una donna giovane, no? C'è come un passaggio delle consegne, c'è un rapporto un po' particolare, un rapporto materno e amichevole allo stesso tempo, confidenziale, e lei sa che questa ragazza è stata innamorata di suo figlio e sente di potersi confidare, ma non è che le voglia confidare quel segreto, le vuol parlare della sua vita, no? Come succede alle persone a un certo punto dell'età tarda, che sentono il bisogno di lasciare anche un'eredità del pensiero, sì, delle cose che hanno fatto delle emozioni, loro vita, soprattutto delle emozioni, e sentono di dover condividere delle cose molto importanti che hanno vissuto. Tra queste cose importanti c'è ovviamente la nascita di suo figlio e l'amore che l'ha preceduta. I personaggi più belli, secondo me, di questo romanzo sono assolutamente i personaggi femminili, appunto Olga e Mercede, insomma. Tu dedichi sempre un'attenzione particolare alle donne protagoniste dei tuoi romanzi. Ma sì, questo no, non posso negarlo. È una tua caratteristica. È una insomma. Mia caratteristica. Sì, ma un po', diciamo, semplicemente perché le conosco meglio, perché è un terreno nel quale mi muovo meglio, un po' perché effettivamente io sono uno di quegli scrittori che nascono alla scrittura dalla lettura, per aver molto amato i libri degli altri, e a un certo punto della mia vita mi sono molto appassionata ai libri delle scrittrici, e ho così, che molto spesso parlano di hanno delle protagoniste donne, molto spesso raccontano il mondo dalla parte delle donne, ma non in senso politico, non in senso femminista, nel senso dell'angolo di visuale delle donne, dalla parte dei sentimenti delle donne, dalla parte delle emozioni delle donne, e anche dalla parte, direi fondamentalmente, del sentimento della vita che hanno le donne. Naturalmente non è che tutte le donne hanno lo stesso sentimento della vita, lungi da me un'idea di questo genere. No, però insomma, queste donne, per esempio queste di questo romanzo, hanno proprio un senso di dedizione, di cura, che mettono nell'amore, una per il figlio o comunque per l'uomo da cui ha avuto il figlio, e l'altra per questo amore, insomma. Sì, direi che però al di là della cura, che sicuramente è un elemento, forse è un modo di guardare il mondo dalla parte delle emozioni, no? Guardano sono l'anima emozionale del mondo, danno molta importanza alla emotività del mondo. Ecco, direi che c'è, raccontando una storia di donne, certamente che siano sentimenti buoni, che siano sentimenti cattivi, che siano passioni dolci o passioni crudeli, però questa anima emotiva del mondo è spesso in primo piano, e credo che anche in questo mio libro, Non esistono cose lontane, ci sia questa presa di possesso emotiva sulla realtà, perché effettivamente nella vita, se uno ha uno sguardo realistico, cinico, pratico, le cose lontane esistono e come, ma se invece c'è uno sguardo emotivo, affettivo sulla realtà, gli affetti legano il lontano al vicino, il vicino. Sì, è come l'idea di una lente di ingrandimento che all'improvviso ingrandisce delle persone magari del passato che assumono un'importanza determinante improvvisamente anche nel presente. Sì, e poi bisogna pensare a quella cosa che dice la psicanalisi, cioè che nell'inconscio il tempo non esiste, no? E quindi il passato e il presente hanno uno scambio continuo. Però c'è un altro tema che per me è importante in questo mio libro, e che è quello del rapporto tra le generazioni. Cioè, a volte sembra che ci sia una distanza assoluta tra le generazioni, che non sia importante che si formi qualche legame, ma invece il legame c'è. Anche quando non si conosce, anche quando si nega, il legame c'è, c'è una figura di una madre da qualche parte, c'è una figura di un padre, e se non la si conosce forse è meglio conoscerla. Ecco, c'è questa idea che non si possono rompere i ponti con il passato. Questo è un romanzo anche molto musicale, nel senso che vengono citate alcune canzoni, addirittura alla fine del romanzo tu fai una playlist che va... Non solo canzoni, ci sono anche molti brani di musica classica. Esattamente, infatti va da Bach a Caterina Caselli, insomma. Sì, sì. Come hai scelto? Cioè, per Chopin. Esattamente, per Chopin. Ma intanto va detto che Ettore è un critico musicale, per certo, cui quindi la musica c'entra. È importante. E poi perché forse io amo molto la musica, penso che nella vita di ognuno c'è una colonna sonora, mi piaceva ricreare un po' la colonna sonora di questi della vita di questi personaggi, anche perché la musica spesso è un ponte tra la nostra realtà interiore e la nostra realtà esteriore, no? A volte quando ascoltiamo un brano di Bach, ma anche una canzonetta, ci sembra così che esprima un po' il nostro rapporto alla vita, i nostri sentimenti, meglio di tante parole. Grazie a Elisabetta Rasì, ora in libreria con Non esistono cose lontane, pubblicato da Mondadori. Per presentare quest'ospite dovrei metterci almeno una decina di minuti, insomma, per indicare tutto il suo curriculum. Vi basti sapere che è un po' considerata la guru dei social media in Italia. Lei si chiama Barbara Sgarzi e come posso definirti più che guru? Cioè, allora, tu hai partecipato alla startup di Yahoo Italia, poi al coordinamento di Yahoo Europa, hai curato le startup di una serie di piattaforme, di siti internet, soprattutto nel mondo dell'editoria, quindi tu come vorresti essere definita? Ah, non lo so, diciamo eclettica. Eclettica. Barbara Sgarzi, una donna eclettica. Perché chiacchieriamo con lei oggi? Beh, chiacchieriamo con lei perché si occupa in particolar modo dell'uso dei social media per quanto riguarda l'editoria. Voi sapete, anche il Cacciatore di Libri è su Twitter, per esempio, con il mio account, si dice così, account? Sì, direi di sì. Come Ale Teddina, insomma, ogni tanto pubblicizziamo quello che facciamo al Cacciatore di Libri, ma ci sono anche molte case editrici che stanno cercando di comunicare nuovi libri, scrittori, le novità attraverso i social media, non solo Twitter. Tra l'altro Barbara Sgarzi ha pubblicato in ebook, ovviamente è inutile dire che parlare di cartaceo con lei, un libro che si chiama Editoria e Social Media. 21 voci autorevoli raccontano strategie, opinioni e strumenti. Ora Barbara, non vorrei iniziare col piede sbagliato questa intervista, ma questo titolo già mi occupa 140 caratteri, quindi se io dovessi comunicare al mondo che tu hai scritto questo libro, come devo fare? Beh, allora, noi ne abbiamo parlato usando l'hashtag 21 voci. Ecco, già questo. Non parlando del titolo, linkando semplicemente al titolo, ovviamente, e usando l'hashtag 21 voci, che sono poi le 21 voci autorevoli che mi hanno raccontato come usano i social media nel promuovere libri, la casa editrice nel fare online reputation, come si dice, quindi rafforzare l'immagine della casa editrice online, e come promuovono le novità, i nuovi autori, i nuovi titoli, eccetera. Ecco, qual è il social media che viene più utilizzato nell'ambito editoriale? Ma diciamo che c'è un mix, e i due più utilizzati da tutti praticamente sono Facebook e Twitter. Mm-hmm. Facebook per i volumi, lo sappiamo, perché ovviamente praticamente tutti i navigatori italiani sono su Facebook, certo. Ecco. Twitter perché è rapido, veloce, perché ha un'elite, è abitato da un'elite, quindi giornalisti, quindi scrittori, lettori forti, eccetera, e piace molto come strumento di promozione editoriale. Effettivamente, quanto serve a una casa editrice fare promozione del libro, della novità, dello scrittore utilizzando i social? Ma è proprio la domanda alla quale volevo una risposta quando ho cominciato a scrivere questo libro, perché che nasce poi da una serie di interviste. Le ho deciso di ampliare le interviste, di sentire altre persone, quelli che decidono banalmente, amministratori delegati, direttori editoriali, eccetera, quelli che danno la linea, perché la mia domanda era... Si investe del tempo, delle risorse, una strategia, non sempre, ma dovrebbe esserci una strategia dietro, assolutamente, esatto, di comunicazione, di marketing. Esatto, ma poi alla fine cosa succede quando io lavoro su un titolo, su un autore, sui social media? Tutti hanno ben chiaro che non c'è un rapporto diretto fra promozione e vendite in libreria. Si sa chiaramente che anche se si parla molto di un libro online, sui social è molto condiviso, eccetera, non è detto... Non influenza le vendite. Non c'è un rapporto diretto, ecco. Okay. Addirittura c'è stato chi mi ha detto, forse ipotizzo anche che quando esaurisci la conversazione sui social, cioè ne parli così tanto, quasi la gente ha meno curiosità di andare a comprare il libro. Ora questo io non lo so, però... Questo è un paradosso che può sempre... Potrebbe essere. Cosa che hanno capito tutti invece, e poi non tutti la mettono in pratica, ma ahimè, vabbè, però la teoria la sanno, è che è fondamentale essere presenti per avviare una conversazione sui libri, che non è detto che appunto poi porti all'acquisto, ma serve a condividere, fare il passaparola. Fare sentire forse anche i lettori parte di una comunità, perché poi quando ci si sente parte di un gruppo si rafforza anche nella propria psicologia la passione per una determinata cosa. Assolutamente, e non solo, tutti noi forti lettori o non forti, ma comunque che amiamo la lettura, quando leggiamo un bel libro non vediamo l'ora di andarlo a consigliare agli amici, no? Cioè certo. Ti viene proprio voglia di dire ho pensato a te. Ecco, funziona questo passaparola, non degli addetti ai lavori. Ogni tanto su Twitter ovviamente consiglio dei libri, poi ci sono le case editrici e così via, però c'è anche il lettore normalissimo che dice ho letto questo, mi è piaciuto. Funziona assolutamente, e si basa come sempre sulla fiducia. Io seguo da alcune persone perché mi fido di loro, anche se non le conosco personalmente, le seguo online perché penso dicano e scrivano cose intelligenti. Se mi suggeriscono un libro, mi dicono compralo perché è bello, io ci credo. Quanto conta trovare l'hashtag giusto, insomma, per riuscire a far conoscere un libro, uno scrittore, un prodotto in genere naturalmente, ma in questo caso stiamo parlando di libri? Ma guarda, l'hashtag è un tecnicismo carino, divertente, ci abbiamo giocato un po' tutti, ci continueremo a giocare, e per come la vedo io deve essere soprattutto chiaro e breve. Barbara Sgarzi, come dicevo prima, fa tante cose e molte di queste sono appunto online, sono sul web. Fra le tante cose che fai c'è questo blog dedicato ai libri che ci sono sul comodino, che io ho trovato una cosa molto molto bella, sia per adulti, diciamo la versione per i grandi e la versione per i piccini. Che cosa fai e dove ti trovano gli ascoltatori? Allora, l'idea dei libri sul comodino è nata perché io compro tantissimi libri e altrettanti me ne mandano in lettura gli editori, che ringrazio pubblicamente perché amo molto, ecco. E quindi avevo questo comodino fisicamente ho occupato da questa pila di libri, e qui mi scopro, perché come tu che fai tutto online leggi di carta. Sì. I post del comodino si trovano sul mio blog personale, che è blimunda.net. A proposito di blog, ultimamente si parla, i blog sono vivi, sono morti, funzionano, non funzionano. Nel campo dell'editoria funzionano i blog? Ma i blog letterari sicuramente funzionano in quanto luogo autorevole, perché ovviamente se hanno lavorato bene si sono costruiti un'autorevolezza, un network di lettori che li stimano e che credono in loro, quindi come collettore e per condividere esperienze di lettura. Allora, facciamo un gioco per concludere. Noi dobbiamo comunicare, insomma, al mondo, adesso mi sto allargando, che esiste questa trasmissione, Il Cacciatore di Libri, su Radio 24, che parla di libri di narrativa, poco di saggistica, soprattutto di narrativa, di qualsiasi livello. Io non faccio mai distinzioni a narrativa alta, narrativa bassa, genere, così un libro è bello o non è bello, insomma. Assolutamente. Che hashtag mi devo trovare e in che modo posso cercare di, come dire, catturare più follower? Io non ne ho tantissimi, credo siano 1500, adesso non lo so. Beh, i miei colleghi qui in radio ne hanno 20.000, 30.000, come faccio a catturarli? Beh, allora funziona un po' tutto con l'economia del dono, quindi prima mettiti in gioco tu, inizia a seguire parecchie persone che sono interessate agli argomenti dei quali parli, sperando che poi anche loro, diciamo, siccome Twitter non è reciproco, non ha l'obbligo di reciprocità, no, quindi devi sperare che anche loro siano interessati. E devo scrivere molto, immagino. Ma molto neanche tanto, devi scrivere bene. Allora facciamo una scommessa con Barbara Sgarzi. Allora tu su Twitter sei Barbara Sgarzi? Barbara Sgarzi. Barbara Sgarzi, io sono Ale Teddina. Da questa puntata del Cacciatore di Libri ci diamo appuntamento a fra un mese. Io farò i compiti su Twitter e anche naturalmente su Facebook, ma lì sono più avvezza, e vediamo da quanti follower sono passata a quanti follower sono arrivata. Perfetto. Ti piace la scommessa? Sì, molto, molto. Ci giochiamo... Un caffè. Dai, facciamo una cosa proprio soft, stavo per dire una birra, ma poi ho detto... No, vabbè, sono astemia, quindi andiamo un caffè. Se vuoi puoi andare anche, ti do uno strumentino gratis online che si chiama Twitter Counter, scritto twittercounter.com, sì, che ti dà il tuo numero di followers attuali e una stima, vedendo quanto cresci più o meno giorno per giorno, una stima di quello che potrai raggiungere fra un mese. Grazie a Barbara Sgarzi, guru appunto dei social media, lei non vuole essere chiamata così, insomma espertissima, mettiamola così, dei social media e di editoria, autrice fra l'altro dell'ebook Editoria e Social Media, 21 voci autorevoli raccontano strategie, opinioni e strumenti, è disponibile su tutte le piattaforme. La cosa bella è che insomma i proventi di questo libro vanno tutti in beneficenza. Ci sono tante classifiche nel mondo dei libri, ma ce n'è una che mi ha colpito particolarmente, la diffusa Amazon, a proposito degli ebook che sono leggibili dal Kindle, che è appunto il supporto di Amazon, l'e-reader di Amazon. Che cosa ha fatto Amazon? Ha fatto una statistica di quali sono i libri, gli ebook, più sottolineati dai lettori e quali sono le frasi più sottolineate, e ha fatto anche una statistica su quali sono le parole che vengono più spesso ricercate con il vocabolario. Insomma, quando si legge su un e-reader non capisco una parola, ho la possibilità di cliccare, nel caso del Kindle si è collegati al vocabolario dello Zingarelli e ci viene subito la parola in italiano, ma ci sono anche naturalmente i vocabolari per le lingue straniere. Chiedo subito ad Alessio Santerelli, responsabile europeo del Kindle Store, come fa Amazon a sapere quali sono le righe che io ho sottolineato sul mio Kindle? Insomma, qualcuno potrebbe dire, è la mia privacy? Allora, della privacy non bisogna preoccuparsi, perché ovviamente nel momento in cui noi utilizziamo questi dati rispettiamo tutte quante le politiche di privacy della nostra... Cioè voi fate, diciamo, molto... un dato aggregato, ma non sapete se Alessandra Tedesco ha fatto questa cosa o chi per lei. Assolutamente, noi non sappiamo, esatto, noi non sappiamo se Alessandra Tedesco ha fatto questa evidenziazione e non sappiamo nemmeno, e diciamo gli altri lettori non lo sanno che Alessandra Tedesco ha fatto questa evidenziazione. Noi quello che facciamo, utilizziamo questa informazione con due scopi. Uno è prettamente quello di sincronizzare i dispositivi. Ovviamente Kindle è un ecosistema molto complesso che permette agli utenti di sottolineare sugli reader e poi magari riaprire lo stesso libro su un iPhone o su un iPad e ritrovare appunto le frasi che si sono sottolineate. Esattamente, senza alcun tipo di sforzo, questo viene fatto completamente in automatico, e questo è un tipo di cosa. Poi l'altra cosa, che secondo me è una cosa abbastanza affascinante per le persone che leggono, è che il sistema utilizza queste informazioni anche per evidenziare per i lettori quali sono i passaggi più sottolineati dai lettori. Quindi, insomma, quali sono le frasi che vanno per la maggiore, che colpiscono di più i lettori che condividono lo stesso libro. Qual è il libro, mi ha stupito molto, devo dire, che è stato più sottolineato dagli utenti di Kindle? Allora, il libro più sottolineato è La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Allora, diciamo, la prima impressione a leggere questo titolo, uno pensa che i nostri lettori sono dei grandi intellettuali. In realtà su Kindle sono disponibili centinaia di classici in lingua italiana completamente gratuiti, e potete immaginare che di quei classici ne vengono scaricate tantissime. Però diciamo che i nostri lettori poi gli piacciono i classici, perché gli piacciono i libri gratis, se ne trovano tanti. Poi gli piacciono anche i best seller, infatti per portarci un po' diciamo in un periodo in un presente più prossimo, i libri più sottolineati sono i libri di Steve Jobs. La biografia di Steve Jobs, sì. Dove c'è una frase, diciamo, notissima che lui ha detto, mi sembra che sia citata anche nel film, che il modo migliore di prevedere il futuro è inventarselo, che diciamo è abbastanza una frase di... Fra un po' la troveremo anche nei cioccolatini questa frase, perché la ripetiamo esatto, sempre, è una grande frase. E poi che altri libri recenti sono particolarmente sottolineati? E poi ci sono, ecco, di recenti sono altri grandissimi bestseller, quindi è 000 di Saviano, Inferno di Dan Brown, super bestseller l'anno scorso, Il cigno nero di Sveva Casati Modigliani, bestseller l'anno scorso, L'eco rispose di Credo Seini. Diciamo sono tutti libri che sono stati anche super bestseller. Sono stati molto venduti nel 2013. L'altra cosa che mi ha incuriosito è appunto l'utilizzo del dizionario. Le parole più ricercate sono state abbaccinare, e lo posso capire, prosaico, e lo posso capire, idiosincrasia anche. Come mai, insomma, si cerca anche idiosincrasia sul vocabolario? Adesso non voglio fare l'intellettuale perché non lo sono affatto, però mi ha stupito che questa parola non sia così conosciuta, o forse molto usata. No, esatto, anch'io mi sono fatto esattamente la stessa domanda e ho fatto la stessa, mi sono dato la stessa risposta, perlomeno spero di darmi questa risposta. Grazie Alessio Santarelli, responsabile europeo Kindle Store, che ci ha illustrato questa simpatica, originale classifica. E prima di chiudere vi ricordo che è appena uscito in libreria il nuovo romanzo dei Wuming. Avete presente, insomma, quel collettivo di scrittori, inizialmente si facevano chiamare Luther Blissett, pubblicato da Einaudi, si intitola L'armata dei sonnambuli. Vi dico solo che è ambientato a Parigi alla fine del Settecento. Vi racconterò di più nella prossima puntata del Cacciatore di Libri. Grazie regia a Gianmarco Ferronato, come sempre da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.